Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo anche con un commento sui dati diffusi oggi dall'INPS e poi la relazione annuale INPS, chiaramente sui nuovi contratti. Anche qui invito a leggere l'articolo di Luca Ricolfi uscito su Sole 24 Ore domenica, perché adesso l'INPS non c'entra con il Ministero del Lavoro, però tra Ministero del Lavoro, Istat e INPS continuiamo perlomeno a sentire la necessità di un dato complessivo che metta chiarezza, perché sul mercato del lavoro non si può continuare a avere dati che non sono paragonabili tra di loro. Lo dico perché oggi l'INPS è uscita con il numero di nuovi rapporti di contratti attivati nei primi 3 mesi del 2015 con l'esonero contributivo previsto dalla legge, e sono 268.000, sottolineando che 206.000 sono state le assunzioni a tempo indeterminato e 61.000 le trasformazioni di contratti a termine. Allora, in questo modo, tra l'altro, il numero più alto si è avuto a marzo, 115.000 nuovi contratti a tempo indeterminato, quindi verrebbe da capire che a marzo, quando è entrato in vigore il Jobs Act, sono due cose diverse, lo spieghiamo sempre, dal primo di gennaio fino a dicembre le aziende che assumono a tempo indeterminato hanno 3 anni di sgravi contributivi fino a un massimo di 8.000 euro l'anno, e questo è un fronte. Da marzo poi è partito anche il Jobs Act, e chiaramente chi assume a tempo indeterminato col contratto tutele crescenti gode anche, se lo fa quest'anno, degli sgravi contributivi che, se non cambiano, se non c'è una nuova modifica, una proroga, scadranno il 31 dicembre. Allora, nei primi 3 mesi, dicevo, 268.000 rapporti di lavoro instaurati con l'esonero contributivo, di cui appunto 115.000 solo a marzo. Ne parleremo tra pochissimo, parleremo anche delle indiscrezioni che vedono Enel e Telecom coinvolte. Tra l'altro sono indiscrezioni che hanno avuto anche una ripercussione in borsa, nel senso che sia Telecom perde l'1,60%, Enel meno 0,60%. Praticamente, secondo indiscrezioni di stampa, l'Enel sarebbe per il governo il candidato migliore per accelerare sul famoso tema della banda ultralarga, quella per ridurre il digital divide, le differenze di accesso e di velocità di navigazione, e soprattutto creare l'infrastruttura digitale del paese. Enel dovrebbe affiancare la fibra ottica e i cavi elettrici, è un'anticipazione che oggi Repubblica, utilizzando parte dei 6 miliardi e mezzo stanziati dall'esecutivo per i prossimi anni, e realizzare la nuova rete in 3 anni. L'obiettivo sarebbe arrivare al 2020 con la copertura totale della popolazione con la rete e nell'85% dei casi con connessioni di almeno 100 mega al secondo. E qual è il problema? Che in questo modo, se venisse confermata questa ipotesi, Telecom diventerebbe marginale in questo piano. Il premier Matteo Renzi, con un Twitter, ha detto: la banda ultralarga è un obiettivo strategico, non tocca al governo fare piani industriali, porteremo il futuro presto ovunque, hashtag la volta buona. Cioè, nel senso, si è tenuto sul vago Renzi su questo. Il presidente dell'Enel, Patrizia Grieco, interpellata, ha detto: l'energia è il nostro mestiere, questo faremo, anche le infrastrutture devono evolvere anche nel mondo dell'energia. Anche qui un commento che lascia aperta ogni ipotesi. Dicevo, i titoli in borsa: meno 1,60 Telecom, meno 0,60 Enel. In una giornata in cui la borsa è sostanzialmente piatta, più 0,16%, e va meglio Milano di Parigi, che perde l'1,11%, e anche di Francoforte, che perde lo 0,30%. Londra, nell'apertura post, diciamo, se vogliamo anche elettorale, è invariata, e è chiaro che le elezioni, il risultato si è avuto venerdì, però oggi si fanno i conti, poco mossa Londra. Il Dow Jones invariato anch'esso. Euro su dollaro a quota 1,11. Tra i titoli che guadagnano, Saipem più 3,40, Intesa più 2,30, Azimut più 2,20, Mediolanum più 2, Monte dei Paschi più 1,70, Prismian più 1,50, Mediaset più 1,30, Autogrill più 1,1, Jux più 1, CNH più 0,90. Tra chi perde, oltre a Telecom ed Enel, anche la Pop Emilia Romagna meno 1,84%, Tods meno 1,30, Snam meno 0,80, Generali meno 0,70 come Eni. Parleremo quindi dell'ipotesi di stampa sulla banda ultralarga, dei dati dell'INPS e anche della relazione della Consob di oggi. Il presidente Vegas, nella relazione annuale dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, ha sottolineato il rischio di bolla speculativa visto il livello che hanno raggiunto i prezzi delle azioni e ha chiesto sostanzialmente che le riforme vengano fatte adesso, se non ora quando, il tempo a disposizione non è infinito, e poi ha ricordato come vi siano troppi vincoli di carattere anche europeo alle banche che frenano l'economia. Faccio notare che in effetti i criteri di patrimonializzazione, chiamiamoli così, decisi dall'autorità bancaria europea e quelli che seguono a Basilea 2 hanno una caratteristica a nostro avviso inaccettabile, ne abbiamo parlato molte volte, e cioè penalizzano le banche che prestano soldi alle piccole e medie imprese come accantonamenti, diciamo così, che devono fare, e avvantaggiano, lo si è visto anche negli stress test, avvantaggiano le banche che invece prediligono strumenti intanto meno utili alle imprese, come per esempio l'acquisto di titoli obbligazionari, ma fin lì, ma anche strumenti di carattere più finanziario, di carattere più speculativo. Allora, voglio dire, anche l'Europa si deve mettere in testa che se le banche servono a rilanciare l'economia non puoi penalizzare, non è per giustificare le banche, ma non puoi penalizzare le banche quando prestano soldi ai piccoli perché il loro rating, il loro voto viene penalizzato particolarmente, quindi la banca deve accantonare più patrimonio quando presta i soldi a un piccolo, perché a quel punto la tentazione di mettere i soldi in operazioni finanziarie e non in operazioni di capitale sulle imprese è fortissima. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Chiaramente parleremo anche di Grecia, perché questa sera inizia l'Eurogruppo e la questione greca è la questione sul tavolo dei ministri economico-finanziari dell'Unione Europea. Insomma, ho già parlato il commissario degli affari economici monetari Pierre Moscovici, che ha detto l'Eurogruppo di oggi è importante per verificare l'intenzione dei greci. Da più parti si fa notare come da un lato si debba prendere atto che così come messa la Grecia non ce la farà ripagare, ma dall'altro il tema è di carattere anche molto politico, perché, ripeto, non è una trattativa tra Stato e mercato, tra Stato e banche e soggetti privati, ma a questo punto è tutta politica e per alcuni versi, a nostro avviso, anche un po' ideologica, su un fronte e sull'altro. Le notizie in breve, partiamo come sempre da quelle di carattere internazionale. Il petrolio resta a 59,6 dollari al barile, quindi leggermente più alto degli ultimi mesi, ma insomma, a mio avviso ancora non in maniera preoccupante. La Germania a marzo segna un calo, è il secondo calo consecutivo nella produzione industriale. Pesa per la Germania l'indebolimento della domanda estera, meno 1%. A febbraio aveva fatto meno 0,8%, è il peggior risultato dall'agosto del 2014. E il Fondo Monetario Internazionale torna a chiedere alla Germania di aumentare gli investimenti per le infrastrutture. È il famoso tema per cui, per l'equilibrio europeo, i paesi non possono spendere e avere un deficit superiore al 3%, devono arrivare al deficit a zero, ma chi ha un avanzo di bilancio deve spendere un po' di più. Non è che lo diciamo noi, lo prevedono gli accordi europei, altrimenti vi sarebbero gli squilibri tra il fratello ricco, e diciamo così, tirchio, e il fratello spendaccione che deve risparmiare. Vediamo se questo esempio può essere utile. Ora, alla Germania viene chiesto non di spendere soldi a favore degli italiani, degli spagnoli, dei francesi, ma di spendere soldi in investimenti infrastrutturali, di cui anche la Germania ha assoluto bisogno. Lo chiede il Fondo Monetario Internazionale, già lo chiese la Casa Bianca, se ricorderete bene, qualche mese fa, e l'FMI ha invitato il governo tedesco a aumentare gli investimenti per le infrastrutture, E i piani di investimento annunciati di recente dall'esecutivo della cancelliera Angela Merkel, dice il Fondo Monetario, vanno nella giusta direzione, ma c'è ancora spazio per misure più ambiziose. Allora, l'INPS, nei primi tre mesi 1.330.000 contratti di lavoro, con 1.000.000 di contratti invece cessati, il saldo positivo di 319.873 contratti, più 138% rispetto al 2014. Nei primi tre mesi del 2014 il saldo era positivo di 134.000 unità, quindi quest'anno i primi tre mesi hanno segnato più del doppio di saldo positivo tra contratti accesi e contratti cessati. Le assunzioni a tempo indeterminato sono state 470.000, più 24% in più. Ma facendo il raffronto tra nuovi contratti e trasformazioni di vecchi contratti, nei primi tre mesi il dato complessivo è di 620.000, il 41% del totale. Per cui a tempo indeterminato. E l'INPS spiega che nei primi tre mesi 268.000 rapporti instaurati hanno ottenuto l'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità per chi è a tempo indeterminato. 206.000 le assunzioni a tempo indeterminato, 61.000 le trasformazioni di contratti a termine in tempo indeterminato. Quindi, stante così le cose, sembrerebbe di capire che al netto delle trasformazioni ci siano stati nei primi tre mesi 206.000. Però attenzione, perché non sappiamo se questo ingloba anche le partite IVA. Comunque, detto così, il dato va ad aggiungersi. Ecco perché chiediamo, il Sole 24 Ore sta facendo una campagna su questo, l'embargo, la fine dell'embargo sui dati del lavoro. Una visione d'insieme, perché l'ultimo dato che abbiamo visto dell'Istat invece faceva notare come non stesse peggiorando, seppur leggermente, il mercato del lavoro, con un aumento della disoccupazione dello 0,1 e un calo dell'occupazione dello 0,1. Su questi dati si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Salvatore Padula. Per curare il tuo giardino scegli gli attrezzi di qualità stile Viking. Scopri le promozioni e i rivenditori aderenti su stil.it e amailtuoverde.it. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Dall'INPS arrivano segnali incoraggianti sul fronte del lavoro. Sulla base dei dati che oggi ha fornito l'Istituto di Previdenza, nei primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2014 sono aumentati i nuovi posti di lavoro. Sono stati attivati oltre 1.330.000 contratti, ne sono cessati poco più di 1.000.000, quindi il saldo positivo è stato di 320.000 posti in più. Si tratta di un'indicazione significativa perché durante tutto il 2014 il saldo positivo era stato di 134.000 unità, quindi meno della metà rispetto al dato attuale. L'altro elemento importante è che in questo primo scorcio di 2015 sono cresciute soprattutto le assunzioni a tempo indeterminato, quindi posti stabili sia come nuovi contratti sia come trasformazioni di contratti a termine. Complessivamente queste assunzioni stabili sono state oltre 470.000, 91.000 in più del 2014. Allo stesso tempo sono diminuite le assunzioni a termine. Allora, questo andamento dell'occupazione non è ancora legato al nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti che si può stipulare solo dall'8 marzo, quindi diciamo un periodo non ancora osservato interamente dai dati dell'INPS. Si tratta invece degli effetti degli incentivi previsti dalla legge di stabilità, che concede alle aziende che assumono sconti contributivi fino a 8.060 euro all'anno per 3 anni. Due motivi che evidentemente hanno spinto le imprese a preferire i contratti a tempo indeterminato ad altre modalità di assunzioni. Servirà però ancora un po' di tempo per capire quali saranno i veri effetti del Jobs Act. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. ogni volta dobbiamo farlo, ma è un'operazione importantissima perché parliamo del lavoro delle persone e qui non sono ammessi, per carità, gli errori li facciamo tutti, ma non sono ammesse sbavature. Allora, il fatto che vi siano più contratti a tempo indeterminato anche da gennaio, quindi non solo quelli col Jobs Act a tutele crescenti, è comunque una notizia positiva. Altra cosa, e qui si innesca anche la politica e la voglia del governo più o meno legittima di subito cantar vittoria, mettiamola così. Altra cosa è capire, ed è quello su cui ci stiamo scornando, anche perché non si riesce ad avere un'informazione omogenea tra Ministero del Lavoro, Istat e INPS. Altra cosa è capire quanti di questi contratti a tempo indeterminato siano trasformazioni di vecchi contratti, determinato, Cocopro, IVA, che comunque è positivo perché hai fino a marzo hai tutte le tutele del vecchio contratto, ma anche dall'8 marzo hai comunque un tempo indeterminato, tutele crescenti con, come abbiamo spiegato molte volte, la malattia, la maternità, la liquidazione in caso di licenziamento di 2 mesi per ogni anno di lavoro, minimo 4 mesi, però non sono nuovi posti di lavoro. E capire invece chi ha assunto in più, e la differenza è dirimente, perché mi può migliorare la qualità della torta senza che la torta si allarghi, oppure può migliorare la qualità della torta con una torta un po' più grande, visto che parliamo di mercato del lavoro. Non è una cosa da poco, fermo restando che è importante che migliori anche la qualità di questa torta. Invece cambiamo tema, perché sul fronte greco la situazione, insomma, è di assoluto stallo, anche se da più parti si fa capire che lo stallo riguarda un approccio più che altro politico. Nessuno si illude che la Grecia possa ripagare il suo debito così come le verrebbe chiesto, 322 miliardi, il 10% sono finanziamenti del Fondo Monetario, l'8% sono prestiti della BCE, il 62% di questi soldi sono finanziamenti degli stati europei attraverso fondi salva stati e prestiti bilaterali, e poi il 17%. Praticamente siamo riusciti in questa gestione della Grecia a ribaltare il rapporto, e quando la crisi è scoppiata in Grecia nel 2010 era l'opposto, cioè la maggior parte del debito ce l'avevano le banche francesi, tedesche e in piccola parte italiane, e poca roba ce l'avevano i cittadini dell'Europa. Adesso, grazie alla strategia illuminante e che non ha portato nessun risultato, diciamo tutta, però il risultato che ha ottenuto è che il 60% di questo debito è in carico ai cittadini europei, perché l'hanno messo i loro stati: la Germania 60 miliardi, Francia 46, Spagna 26, Italia 40 miliardi. Il sistema bancario, che prima era esposto per queste cifre, ormai non è esposto per quasi nulla, in Italia è un poco più di 1 miliardo. Domani scade il prestito del Fondo Monetario da 750 milioni di euro, e il 15 maggio scadono, la Grecia deve rimborsare titoli di Stato in scadenza per 1 miliardo e 400 milioni. Il commissario degli affari economici europei, Pierre Moscovici, ha detto: l'Eurogruppo è importante, scusatemi, di oggi è importante per verificare le intenzioni dei greci, la Grecia deve darci rassicurazioni. Per ciò che riguarda l'ultima riunione dell'Eurogruppo 2 settimane fa, da allora ci sono stati dei grandi progressi. Innanzitutto di metodo, che magari può non essere ideale, ma funziona. E ha permesso di fare progressi sostanziali su punti importanti, anche se restano ancora delle differenze da colmare. La riunione di oggi è importante per verificare le intenzioni delle autorità greche, che devono rassicurare l'Eurogruppo sulla volontà, sul loro impegno, a fare le riforme necessarie per concludere un buon accordo. Da parte della Commissione posso garantire che c'è la volontà di arrivare a un accordo. De notre côté, du côté de la Commission, je veux assurer de notre volonté d'y parvenir. E poi Varoufakis, il ministro delle finanze greco, credo, sono molto fiducioso. Oggi ci sarà un comunicato sui progressi dei negoziati. Pagheremo regolarmente il Fondo Monetario e domani l'Eurogruppo getterà le basi per un accordo nei prossimi giorni. Chiedo all'editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei, la nostra mitica Adriana Ceretelli. Buonasera Adriana. Buonasera. In collegamento da Bruxelles, se anche tu sei un po' più fiduciosa rispetto, diciamo, ai colori grigi, per non dire tetri, che hai dipinto la settimana scorsa, quando la situazione era continuata, era tornata ad essere in pesante stallo. Adriana. No, io credo che qualcosa si muova. Da qui a cantare vittoria direi che è meglio essere prudenti, perché sicuramente, come tutti ripetono in queste ore i ministri che hanno parlato, diciamo di progressi ce ne sono e ce ne sono stati dal punto di vista del negoziato, della voglia appunto di trovare un terreno di intesa, ma l'intesa è ancora lontana. Per esempio, sui temi più delicati quali le pensioni, l'aumento dell'età pensionabile, la flessibilità del mercato del lavoro con libertà di licenziamento, sullo stesso surplus primario che la Grecia deve accumulare per avere appunto il cambio degli aiuti, era stato fissato al 4%, per quest'anno al 3%, in sostanza è andato in negativo, non in surplus, proprio a causa anche della recessione, delle mancate entrate fiscali. E su questo punto per ora non c'è, su questi tre punti non c'è nessun accordo, qualcosa si muove sulle privatizzazioni, ma insomma diciamo non possiamo ancora dire che che l'accordo è a portata di mano, questo è il punto. Quello che c'è di buono è che Varoufakis ha detto, e si spera che sia vero, che domani saranno in grado di onorare la scadenza del Fondo Monetario. Molti nel weekend temevano addirittura un default con il fondo monetario. Questa è sicuramente una buona notizia. L'altra notizia teoricamente buona è che Schäuble, entrando di fronte alla prospettiva di un eventuale referendum che in Grecia possa approvare l'accordo che potrebbe essere raggiunto da qui alla fine del mese, dice può essere una buona cosa, in quanto vorrebbe dire far decidere popolare i sacrifici. Quindi diciamo i segnali ci sono, nessuno, io l'ho sempre sostenuto, lo ribadirò finché campo, nessuno ha interesse a far fallire la Grecia, perché i danni per l'Europa alla fine sarebbero secondo me molto maggiori di quelli dei greci stessi, che sarebbero disastrosi. Però ci può sempre essere l'incidente di Sarajevo, che interviene, diciamo. Purtroppo ci può essere appunto l'irrigidimento da parte di qualcuno. Poi c'è anche il problema dei parlamenti che devono approvare queste misure, non ce lo dimentichiamo. Certo. E ci sono certi parlamenti al nord, prendiamo i finlandesi per dirne una, cioè le ultime elezioni hanno visto salire al potere partiti euroscettici, anti-euro eccetera, che quindi non hanno certamente voglia di regalare alcunché alla Grecia. Insomma è un'atmosfera abbastanza, però c'è la volontà di finalmente si ritrova, diciamo, dopo la grande crisi di Riga che aveva visto proprio le porte in faccia. Adesso no, adesso ci si parla, e questo è sicuramente un fatto molto positivo. Allora, nel frattempo, appunto, tu citavi già Schäuble, perché è importante il referendum in Grecia? Perché potrebbe essere un modo, qui ragioniamo di politica, per il governo di Tsipras per da un lato far passare un accordo e dare anche all'Europa il segnale che, diciamo, c'è dietro un paese, per cui se il referendum può essere la scelta per non mettere in difficoltà Tsipras politicamente nella politica interna, è una strada che Schäuble appunto ha detto di vedere con favore. Faccio notare però che da un lato il Fondo Monetario Internazionale, secondo quanto riporta oggi Wall Street Journal citando il vice direttore del Dipartimento Europeo, si sta comunque esercitando, per così dire, sta lavorando con le autorità nazionali del sud-est Europa su piani di emergenza nel caso fallisse la Grecia. Perché questo? Perché ci sono banche greche che hanno anche una certa importanza sia in Bulgaria che in Macedonia che in Romania, in Albania e in Serbia, no? Per cui nell'eventualità che tutti vogliamo scongiurare di un default, di un fallimento greco, vi sarebbe anche questo problema in quei paesi, e vedremo se stasera uscirà un leggero passo in avanti il ministro dell'economia slovacco Peter Kazimir, entrando però all'Eurogruppo, ha detto non ci sono stati progressi nel processo, ci sono stati progressi nel processo, non sui contenuti. Però vedremo, noto anch'io che anche Adriana Cerretelli è leggermente più possibilista, ripeto, è una terra incognita quello che capiterebbe se se non si arrivasse a un accordo per una cifra tutto sommato bassa rispetto ai rischi che si correrebbero. Grazie intanto all'editorialista del Sole 24 Ore in collegamento con noi da Bruxelles. Meteo, pubblicità, poi andiamo sulla borsa e sulle indiscrezioni che coinvolgono Enel, ma coinvolgono anche Telecom sui progetti del governo per la banda larga, la futura banda larga nel paese. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Focus Economia. A 7:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e veniamo alla borsa e poi a Enel Telecom. Devo rispondere a un ascoltatore: come mai non dici che grazie a Renzi rischiamo di perdere 40 miliardi che ha prestato la Grecia? No, guardi, è un po' diverso. Abbiamo appena criticato il governo perché non si riesce ad avere una comunicazione unica sui dati sull'occupazione dei tempi indeterminati, quindi però la linea che ha portato a trasformare il debito greco, che nel 2010 era per gran parte privato, cioè delle banche, i crediti diventavano le banche, in debito pubblico, cioè adesso i soldi li abbiamo prestati noi europei, gli italiani a testa hanno prestato circa 400 euro a testa, non è obiettivamente una scelta del governo Renzi, ma è stata, e neanche del governo Letta e Monti, che sono stati troppo morbidi e deboli, questa è la critica che facciamo anche al governo Renzi con l'Europa, ma è la scelta della guida tedesca e dei paesi satelliti nei confronti della Grecia. Sarà un caso, ma le banche tedesche e anche francesi erano quelle più esposte nel 2010, 40 miliardi le tedesche, vado a memoria, 60 le francesi. Adesso invece sono i cittadini tedeschi, i cittadini italiani, i cittadini francesi aver prestato i soldi alla Grecia. Questo è il fallimento, ammesso che fosse appunto solo per ingenuità, dell'atteggiamento avuto con la Grecia: aver trasformato quelli che erano prestiti fatti dalle banche, che si assumono il rischio dei prestiti che fanno alla Grecia, perché ci ricordiamo anche che le banche tedesche prestavano i soldi alla Grecia, ma vendevano anche i sottomarini, c'era lo scandalo della Siemens, delle tangenti, e invece adesso l'hanno caricato su tutti i cittadini europei. Onestamente, su questo Renzi non c'entra nulla. Allora, la borsa, al di là di Enel e Telecom, invariata la chiusura di Milano: Parigi meno 1,20, Francoforte meno 0,30, Londra meno 0,20, il Dow Jones meno 0,15%. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, dicevo, poi parliamo di Enel e di Telecom Italia. Saipem più 3,40%, Mediolanum più 2%, Azimut più 1,90%, Intesa San Paolo più 1,90%. Oggi diffuso i conti, trimestrale utile oltre 1 miliardo, gli analisti si attendevano 650 milioni e conferma Intesa San Paolo l'obiettivo di 2 miliardi di dividendi nel 2015. Eleonora. Sì, quanto basta appunto per spingere all'insù il titolo, che in verità non appena sono stati diffusi i conti è rimasto abbastanza stabile. Poi dopo, quando l'amministratore delegato Messina ha iniziato a indicare i target futuri e spiegare bene il raddoppio dell'utile nei primi 3 mesi dell'anno, ha ingranato la marcia e ha registrato nuovi massimi, peraltro da diversi anni. Ancora, per quello che riguarda i titoli, visto che parliamo di banche, oggi abbiamo visto anche bene il Monte dei Paschi più 1,50%, i conti, va detto, visto che il Monte dei Paschi l'abbiamo giustamente bastonato per anni, che la banca è tornata inutile dopo 3 anni di perdite, 71 milioni nei primi 3 mesi. Vedremo se questo utile dei primi 3 mesi riuscirà a essere mantenuto nel corso dell'anno. E sembra che comunque la borsa dia un voto positivo al piano industriale proposto da Viola e anche Profumo. Sì, esatto, i vertici non solo hanno annunciato il ritorno all'utile dopo peraltro 3 anni di perdite, 3 anni cumulate, di perdite cumulate per oltre 10 miliardi, ma soprattutto hanno indicato di aspettarsi di raggiungere un utile pari a circa 880 milioni nel 2018. Questo anche grazie a un matrimonio, si è tornato a parlare di matrimonio e la speculazione piace sempre ovviamente alla borsa. Inoltre l'amministratore delegato Fabrizio Viola ha anche detto che se nei prossimi giorni, entro questo questa settimana arriverà l'ok da parte della Banca Centrale Europea, partirà l'aumento di capitale da 3 miliardi già entro fine maggio, entro il 28 maggio, operazione con la quale finalmente appunto la banca senese inizierà a camminare con le proprie gambe, a essere una banca solida senza necessità di aiuti di Stato. Allora, per quello che riguarda gli altri titoli, invece cito sempre tra i bancari, oggi bene anche la Pop Milano, più 0,40%, invece si è poi fermato il Banco Popolare, tra l'altro c'era un'intervista a Radio Cori in cui il numero uno Saviotti diceva che il suo sogno nel cassetto era la fusione con la Popolare di Milano, no? Esatto, nel primo pomeriggio infatti sia Banco Popolare sia BPM diciamo andavano decisivamente meglio, questo anche grazie al fatto che Saviotti ha confermato che ci sono colloqui per eventuali aggregazioni, ma il suo sogno nel cassetto, come ha sempre dichiarato, rimane la BPM, e dunque continua a carezzare questo sogno. Ha detto molti lo definiscono impossibile, lui lo definisce praticamente soltanto molto difficile, ma non irrealizzabile. Beh, diciamo è un'ulteriore conferma dell'interesse che c'è tra Banco Popolare e Popolare di Milano. Questo rientra nello schema più ampio del risico cosiddetto delle banche popolari, vista la riforma del governo. Tutti danno, devo dire, abbastanza per scontato che il numero di banche popolari non resterà questo, e che avremo anche abbastanza a breve grossi processi di fusione tra banche. Bisogna capire poi qual è il rapporto di forza che si viene a creare. Saipem invece più 3,43%, qui c'è South Stream, il gasdotto. Esatto, sin dalle prime battute di questa mattina i titoli si sono messi in evidenza, del resto è stato annunciato che appunto è stata revocata la sospensione dei lavori interrotti a dicembre su South Stream. Il progetto sarà rivisto visto che sfocerà in Turchia anziché in Bulgaria. D'altra parte è un progetto importante in cui, ricordiamo, la controllata del gruppo Eni si era già aggiudicata un contratto da 2,4 miliardi di euro. Allora, una nota, devo dire, ha ragione un ascoltatore, perché citando i debiti che i greci o la Grecia aveva con le banche europee, è vero che questi crediti che le banche europee avevano sono stati pesantemente ristrutturati, il famoso haircut, se non ricordo male, il 45% del loro valore, però è anche vero, e quindi fa bene a ricordarmelo, e per correttezza di informazione lo cito, è anche vero che complessivamente data l'operazione vede adesso la stragrande maggioranza del debito greco in mano ai cittadini, o pagato dai cittadini europei e non più dalle banche. Andiamo avanti rapidamente, oltre a Saipem c'è Exor. Sì, Exor oggi diciamo che ha registrato un andamento a doppia faccia. Sì, perché poi ha fatto più 0,12 nel finale. Sì, in prima battuta era partita bene e poi ha subito rallentato il passo. Questo perché praticamente si è festeggiato il fatto che l'azienda abbia effettuato una cessione, Cushman e Wakefield abbia portato a termine tale cessione, portando a casa ben 722 milioni di plusvalenza. D'altra parte, secondo indiscrezioni di stampa circolate nel fine settimana, Exor, la holding della famiglia Agnelli, potrebbe rivedere al rialzo l'offerta già messa sul piatto per Partner, il riassicuratore americano. Sì. Ricordiamo che aveva già messo sul piatto la bellezza di 6 miliardi di euro cash. Allora, migliori e peggiori, poi arriviamo, vedo molti ascoltatori, ad Enel e Telecom. Migliori e peggiori in assoluto, Fedon più 14, Seat Pagine Gialle più 7, Edes più 6,5, Piaggio più 5, Renault più 4,50%, Prelios più 4,40, peggiori invece in assoluto, Asco Piave meno 7,80, la Lazio meno 6,40, al di là delle polemiche. Immagino arbitrali, Airiel meno 5, Cairo meno 5, AXA meno 4,80%. Il traffico, grazie Leonora Micheli, e poi parliamo di Telecom ed Enel. Focus Economia. Allora, ultimo tema della prima ora, progetto banda larga del governo, abbiamo parlato molte volte, abbiamo anche raccontato in questi mesi di una certa freddezza, per essere buoni, del gruppo Telecom Italia su questo, Che cosa succede? Oggi sul quotidiano Repubblica si cita un'ipotesi per cui il governo starebbe per investire, diciamo così, del progetto banda larga e quindi la nuova rete per arrivare alla copertura totale della popolazione entro il 2020 e per l'85% della popolazione addirittura con 100 mega al secondo, starebbe investendo non Telecom Italia, che dovrebbe essere il candidato naturale, pur essendo completamente privata, ci mancherebbe, ma Enel, che essendo partecipata è chiaramente gestibile dal governo. E l'indiscrezione è questa, che Enel avrebbe già inviato all'autorità per le telecomunicazioni una lettera di intenti per un progetto che promette di coprire anche le aree più disagiate, come le zone montane, le campagne più isolate, utilizzando le tecnologie FTTB e FTTH. Enel, ricordiamo, ha già avuto un ruolo nella telefonia anni fa con Crando Wind, che poi cedette al magnate egiziano Sawiris. Però poi Renzi ha detto: noi non facciamo piani industriali, la banda ultralarga è un obiettivo strategico, non tocca a noi fare i piani industriali. Ma chiedo a Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera Antonella. Buonasera. A me sembra quasi un messaggio, adesso mettiamola così, come dire, butto il sasso nello stagno e dico: attenzione Telecom Italia, perché questa è una cosa maliziosa. Noi non possiamo importare nulla perché sei un soggetto privato, però abbiamo la possibilità di utilizzare le condotte, le canalette, l'infrastruttura di Enel per far passare la banda larga da lì. Antonella. Ecco, effettivamente diciamo che c'è da distinguere due piani: da una parte c'è il messaggio politico e dall'altra c'è la realizzabilità pratica dei piani, che devono tener conto evidentemente anche delle convenienze economiche, perché si tratta di aziende. Anche l'Enel è un'azienda, anche se è partecipata dallo Stato, comunque mi era profitto. E certo, il discorso è che il messaggio politico è abbastanza chiaro, è evidente che la banda ultralarga è un'infrastruttura importante, che al governo importa molto, che importa a portarci il paese a livello degli altri paesi europei. E diciamo il punto è soprattutto delle aree, quelle a fallimento di mercato, perché in pratica nessun operatore privato ha intenzione di investire, magari senza incentivi adeguati, certo, nelle zone dove non c'è ritorno economico. È un po', economico. Se volete, il tema del trasporto ferroviario, quando si dice: beh, ci sono gli incentivi, certo, alle ferrovie, perché sennò alcuni collegamenti non verrebbero mantenuti. Qui parliamo, certo, di banda, di infrastrutture digitali, e quindi le aree montane, appunto, i paesi più distanti, dove il costo dell'infrastruttura non verrebbe ricoperto dai semplici abbonamenti. Ecco. Ma tutto questo, Antonella, nasce per una freddezza iniziale di Telecom quando Renzi annunciò il progetto. Ma no, in realtà diciamo nasce da una storia molto, molto lunga di tentativi, di approcci tra pubblico e privato. Se ti ricordi, c'è stato anche quel tentativo di scorporo della rete, certo, quando c'era, certo, presidente Bernabé, ma non se n'è fatto nulla, si è tornati con un altro discorso: concentriamoci sulla rete di nuova generazione adesso con Metrope. In tutti e due i casi non si è riusciti, almeno finora, a trovare la quadra. Il problema però del discorso dell'Enel, per quello che ci risulta, l'Enel non ha intenzione di fare una Metrope nazionale. In realtà, certo, ha risposto alla Gcom che c'è la disponibilità evidentemente di mettere a disposizione strutture che ha già capillari, sì, in tutto il paese, però per dire, nelle zone tipo Milano e Roma l'Enel non c'è, dove ci sono le municipalizzate. Il problema è c'è la possibilità tramite l'Enel di raggiungere gli edifici in modo più semplice, anche perché hanno, come dire, i fili elettrici e ci puoi attaccare pure il filo, certo, della fibra. Ma è il vecchio discorso che si fece a fine anni 90 sulla digitalizzazione del paese, cioè se tu facevi l'accordo con le ferrovie o con Enel o con Eni, sì, perché sfruttavi la loro infrastruttura, proprio le canalette, non so come chiamarle. Esatto, cioè, sì, esattamente così. Vedremo se la mossa è più politica, per dire a Telecom: fateci capire le vostre intenzioni, se no ci muoviamo in altro modo, o se c'è un interesse vero di importare Enel a fare questo. Enel chiaramente cosa poteva dire? Ha detto che diciamo ha inviato una lettera di intenti. Nella pratica è un progetto complementare. Nella pratica sarebbe complementare. Grazie intanto, estremo a vedere. Antonello Olivieri, GR24, poi torniamo sia per Vegas, relazione della Consob, che per l'Aracomi sui costi delle interrogazioni scritte nell'Europarlamento. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, ultima parte di Focus Economia. Allora, prima di arrivare ai temi dei costi dell'Europarlamento, avevo promesso appunto che avremmo avuto ospite anche chi ha sollevato il caso facendo 82 interrogazioni scritte che costano 1500 euro l'una. Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia, tra poco nostro ospite. Mi aggancio a quanto già dicevamo prima nella prima ora, quindi la relazione annuale della Consob, il rischio bolla avanzato dal presidente della Consob Giuseppe Vegas, rischio bolla per l'enorme liquidità affluita sui mercati borsistici, che ha detto oggi Vegas ha contribuito a innalzare in maniera repentina il valore delle azioni, portando a una crescita del rapporto prezzo-utili che potrebbe segnalare il rischio di bolle speculative. E poi sulle banche, un'eccessiva attenzione dei regolatori europei, profili di stabilità, qui è Basilea 2 riferimento, e le regole dell'EBA che penalizzano le banche italiane quando prestano soldi alle imprese e avvantaggiano le banche straniere quando investono in strumenti altamente speculativi, comunque più speculativi che il prestito all'impresa, ha detto Vegas. Troppi vincoli alle banche frenano l'economia. Fare le riforme se non ora quando, è andato anche un commento di carattere più politico sull'Italia. Ne ha parlato poi Giuseppe Vegas con la nostra inviata alla relazione Consob, Livia Zancaner, partendo appunto da come sia cambiato il contesto di mercato. Il contesto di mercato è cambiato perché ne abbiamo visti di tutti i colori in questi anni, a iniziare dalla crisi Lehman e poi la crisi del debito sovrano. Adesso sono stati messi in cantiere molti interventi che consentono di rafforzare soprattutto la parte bancaria. Insieme alla parte bancaria bisogna rafforzare anche quella dei mercati finanziari, perché è come costruire un ponte con un pilastro solido e un altro che traballa, non funziona. Però ci sono molti indicatori che dimostrano come stia cambiando, d'altronde tutte le crisi prima o poi finiscono, e adesso questo è un momento d'oro, perché abbiamo un'inflazione bassa, abbiamo i soldi del quantitative easing, quindi c'è liquidità disponibile, c'è il cambio col dollaro che è diventato migliore per i nostri esportatori e c'è il petrolio a prezzo relativamente basso. Quindi ci sono questi quattro elementi che costituiscono il detonatore di una situazione che potrebbe effettivamente svilupparsi in modo positivo. Lei ha parlato però di rischio di una bolla speculativa. È ovvio che da una parte questi elementi non dureranno in eterno, quindi bisogna in qualche modo muoversi. Dall'altra, se non si sviluppa l'economia reale, se questi soldi non vanno alle imprese, cosa fanno? Molti di essi vanno a finire nella borsa, la quantità dei titoli trattati non aumenta, quindi il prezzo di questi titoli aumenta e sostanzialmente diventa una bolla, perché restano tanti soldi che corrispondono al valore di un bene che era precedentemente fissato a un prezzo più basso, e questo ovviamente è un rischio. E parlando di normativa, lei ha detto che le regole troppo stringenti sulle banche, quindi sui requisiti patrimoniali, potrebbero indurre un'ulteriore stretta al credito. Le regole stringenti hanno già indotto, ce ne sono altre nella pipeline pronte per essere cucinate che potrebbero essere molto rischiose per le nostre banche. Si tratta di trovare una via di applicazione che sia ragionevole. E quale potrebbe essere questa via ragionevole? Questa vedremo, ancora non è in discussione. Ha parlato di imprese, ha lanciato come novità l'idea di un'agenzia europea per le piccole e medie società. Di cosa si tratta? Perché no? C'è l'idea di costituire in Italia, perché no a Milano e perché no nella sede dell'Expo, un'agenzia che metta a disposizione tutti i dati finanziari delle piccole e medie imprese. Perché? Perché le piccole e medie imprese hanno bisogno di finanziamenti non più dalle banche ma dai risparmiatori. Ma se non si conoscono bene i loro valori patrimoniali, i ricavi, le performance eccetera, e il risparmiatore è difficilmente disposto a dare soldi a una persona che non conosce. Bisogna trovare un metodo trasparente che consenta di far circolare questi dati, ed è difficile che lo possano fare singole imprese di piccole dimensioni perché non hanno soldi abbastanza. Ci vuole un meccanismo condiviso che consenta un po' di ripartire la spesa. E ci potrebbero essere anche sulla questione borsa incentivi per le aziende che si quotano? Beh, già ce ne sono, certo, più incentivi ci sono meglio è. E invece sul fatto dell'innalzamento delle soglie di partecipazione, quali sono i pro e contro? Beh, i pro e contro, più si innalzano le soglie meno trasparente il mercato, più si abbassano più il mercato è trasparente, però è un disincentivo all'impresa a quotarsi. E quindi, come sempre, bisogna trovare una via di mezzo. Anche può essere un disincentivo per i fondi che investono? Ma certo, bisogna trovare quella via di mezzo. In Europa si sta viaggiando verso il 5%, potrebbe essere ragionevole, lasciare il 5% per le piccole e magari 3% per le grandi, insomma, perché non tutte le imprese sono come le persone, non sono tutte uguali. È in corso la creazione di un mercato unico dei capitali, le ha parlato di un'Europa che finora è stata miope. È un'Europa che ha difeso singoli interessi regionali, non va bene, non possiamo affrontare la sfida con la Cina mostrandoci come la Grecia classica ai tempi della conquista romana, ognuno litiga con l'altro. L'ultima domanda su un caso specifico, la Procura ha aperto un'inchiesta sull'offerta di A-Towers su Rai Way, Consob e Magistratura stanno collaborando? Come sempre c'è una massima collaborazione tra Consob e Procura, ognuno fa il suo mestiere finalizzato a rendere più trasparente il mercato. Questa è l'intervista della nostra Livia Zancanera e Giuseppe Vegas, vedremo anche cosa porterà l'inchiesta della magistratura nata dall'esposto, dalla denuncia della Consob proprio su A-Towers. Adesso il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Are you with me? Are you with me? Allora, ultima parte di Focus Economia. Come promesso, se lo ricorda chi ha ascoltato la puntata di venerdì, dove all'interno della poco invidiabile classifica di Focus Economia, la top 5 degli sprechi, cattive abitudini, dei soldi o dell'utilizzo dei soldi pubblici, abbiamo citato, non è la prima volta, anche il Parlamento europeo, ricordando quanto costano le interrogazioni parlamentari. Del Parlamento europeo ci siamo occupati già altre volte per ricordare, al di là di ogni populismo, non solo quanto percepiscono gli eurodeputati, 8.000 euro al mese più i 4.300 di spese generali, l'indennità di 304 euro per ogni giorno di presenza in Parlamento, sostanzialmente fa tra i 17.000 e i 19.000 euro lordi al mese. Siccome sono parlamentari europei, almeno questa volta possiamo dire che tutta l'Europa è paese, per non dire tutto il mondo è paese. C'è anche l'indennità di viaggio annuale per coprire le spese di eventuali viaggi di fuori dello Stato membro di elezione, e viene versata quando si presenta il titolo di viaggio, e va bene, ha un tetto annuo di 4.200 euro. Poi ci sono altri 19.000 euro per pagare gli assistenti. Abbiamo raccontato anche di una brutta o perlomeno sospetta abitudine dei commissari dell'Unione Europea, i quali il venerdì tendono sempre a essere nella città di origine, giustificando delle volte con obiettivamente impegni dubbi o quantomeno deboli il fatto di doversi trovare sempre il venerdì nella città di origine, anche perché in questo caso viene pagata la trasferta e risulti sostanzialmente, come si direbbe in gergo, lì per lavoro. Ma venerdì scorso abbiamo fatto notare quanto costano le interrogazioni parlamentari. Il caso lo ha sollevato l'eurodeputata Lara Comi, che ha fatto 82 interrogazioni scritte alla Commissione Europea in 24 ore. E lei ha ricordato, l'ho fatto apposta, voleva far saltare le classifiche falsate, perché a livello di Parlamento europeo l'interrogazione si può fare sia fisicamente, oralmente, sei lì e fai l'interrogazione, ma può essere anche scritta. Ora, quando è scritta, tornano sul PC dopo un paio di mesi e hanno un costo, perché il testo va registrato, tradotto, studiato dall'esecutivo europeo, spedito al Parlamento, ritradotto. Per cui ogni questione, ogni interrogazione scritta costa 1.500 euro. Ciò implica che, nel caso dello specifico della provocazione di Lara Comi, le 82 domande sono costate 120.000 euro. E abbiamo raccontato anche dei 228 testi della leghista Mara Bizzotto, 340.000 euro, uno al giorno. Ma con interrogazioni, onestamente, addirittura sugli animali dello zoo ucraino di Kharkiv, a cui le sto risposto, scusateci, la Commissione Europea non si occupa ancora dell'Ucraina perché non è in Europa. Anche i grillini Corrao e Castaldo, 127 interrogazioni da luglio e addirittura sulla soap opera agrodolce. Michela Giuffrida del PD fa un'interrogazione scritta sul cedimento del pilone della 19 Palermo-Catania, che non c'entra nulla con l'Europa. Il leghista Bonanno che denunciava gli auricolari sporchi e paventava il rischio Ebola. Abbiamo fatto pure la battuta su Radio 24, a questo punto saremmo tutti morti di tifo e colera se fosse così. Allora, abbiamo in collegamento adesso Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Che è quella che ha scatenato non tanti costi, quelli mi sembravano già alti prima. Lei ha fatto 82 interrogazioni scritte perché voleva dimostrare cosa, onorevole Comi? Sì, proprio per ridurre i costi in questo caso. Beh, insomma, perché tanto sono costate sembra... 120.000 euro. Però... No, ha perfettamente ragione, però era l'unico metodo, e su questo vi ringrazio, dove i media hanno preso a cuore e attenzione la questione. Allora, noi abbiamo questo sito che si chiama, che non è ufficiale, non è redatto dal Parlamento Europeo, che si chiama Map Ranking, all'interno del quale ci sono una serie di classifiche. Queste classifiche vengono poi prese di riferimento dai media per comunicarlo giustamente ai cittadini. Dico giustamente perché l'informazione è sacrosanta, ma bisogna avere un sistema ponderato, perché un'interrogazione parlamentare viene paragonata a un dibattito in aula, un intervento in aula, e quello che peggio ancora, a una legge. Quando noi svolgiamo una legge e quindi la portiamo a termine come relatore, ci vuole a volte un anno, due anni, e vale un punto quanto un'interrogazione. E allora che cosa succede? Che tanti colleghi, ma non solo italiani, adesso anche i francesi hanno riscoperto questo metodo, e il primo era uno del Front National, fanno fare a assistenti interrogazioni su interrogazioni, poi naturalmente il deputato le corregge e le firma, a volte anche non utili, insensate. E questo è veramente un costo, dato che dura le abbiamo da raccontate anni. Anche. Esatto, esattamente, dato che durano da 5 anni, l'unico metodo, e mi spiace ai media di aver fatto spendere 120.000 euro, ma il mio obiettivo è che non si spendano più questi soldi per interrogazioni inutili. Le faccio un esempio, mi è stato criticato il fatto di aver fatto un'interrogazione sulla ipoterapia. Sì, a me spiace che l'ho citata io. Ecco, a me spiace che questo sia stata una critica, perché vede, quell'interrogazione mi è stata chiesta da un gruppo di disabili della mia provincia, proprio perché su questo ambito alcuni fondi, alcuni bandi a livello europeo per tutto l'ambito sanitario della riabilitazione ci sono. Quindi è un'interrogazione che svinirla è come dare... No, guardi, noi non l'abbiamo però... Comi, un secondo. Noi non l'abbiamo svinita. No, ma non era il suo. No, io no, ma aspetti. Io non mi riferivo solamente al suo. Non l'abbiamo svinita. Abbiamo solo fatto notare che quando lei ha chiesto se Bruxelles ha piani per l'ipoterapia, e abbiamo anche precisato che è una cosa serissima, perché appunto si tratta di utilizzare i cavalli, gli equini, esatto, per dare un aiuto più che curare magari, ma dare un aiuto a bambini spesso, ma non solo, anche adulti con gravi disabilità, la Commissione Europea ha risposto: i programmi non prevedono azioni in materia, cioè mezza riga. Allora io mi chiedo se sia necessario fare un'interrogazione parlamentare che costa comunque 1.500 euro per un tema giustissimo, per avere una risposta di mezza riga, ma non si poteva sapere in altro modo. Però vede, il problema, scusi, non è la domanda che noi poniamo, il problema è la risposta. Perché in realtà la Commissione Europea, poi andando a fare un'analisi più dettagliata, non ha programmi in tal senso, ma ha fondi e finanziamenti legati all'ipoterapia e legato a tutto questo. Quindi anche su questo poi noi dovremmo fare a livello di Parlamento un'analisi sulle risposte che vengono date, che spesse volte sono molto evasive, perché essendo poi sul Gazzetta Ufficiale non vogliono prendere delle responsabilità. Mi scusi Comi, ma lei questa, chiamiamola provocazione costosa, perché poi i soldi sono nostri, anche nostri, tutti gli europei, Certo. L'ha fatta per dimostrare quanto costano queste interrogazioni scritte, che a mio avviso andrebbero quasi abolite o comunque non certo utilizzate in tutto questo modo, visto che ripeto sono 1.500 euro tra traduzione, passaggio, ritraduzione, insomma la cosa, o l'ha fatta per dimostrare che la classifica, diciamo, dell'attività e quindi anche dell'attivismo degli eurodeputati è falsata da chi si mette lì, scrive e fa un'interrogazione sulle cose delle volte serissime, ci mancherebbe, ma altre volte certo, più strampalate solo per essere alto nella classifica. Quale delle due? Guardi, i due aspetti sono legati. Il primo aspetto che lei ha posto è quello a livello economico, che mi sembra anche una cifra esagerata, 1.500 euro a interrogazione. secondo aspetto è lo stipendio, è lo stipendio di molti italiani questo. Appunto, si figuri, cioè, mi sembra assurdo che se io devo porre una domanda alla commissione dove c'è tutta questa trafila io devo spendere 1500 euro, è assurdo. Ce lo compravamo il cavallo con 1500 euro quasi. Hai voglia, ma quanti adesso non conosco i prezzi dei cavalli, però insomma, prego. Costano un pochettino di più, però insomma quello potrebbe avere sicuramente un grande aiuto. Seconda cosa, una operazione verità, perché bisogna dimostrare che il merito è diverso rispetto a quello che avviene con la quantità, spesse volte non fatta direttamente dai deputati. Faccio l'esempio, si parla anche di presenza dei deputati, c'è gente che ha il 100% di presenza. Sì, peccato che quella viene calcolata solo una volta al mese a Strasburgo e le altre tre settimane che noi andiamo a Bruxelles non vengono registrate all'interno del sistema MAP Ranking. Quindi anche il cittadino che con la preferenza, perché noi abbiamo un sistema preferenza, dà la fiducia, deve sapere se il proprio parlamentare che ha votato lavora e come è presente. Quindi io penso che il nostro stipendio, che ce lo siamo ridotti del 50% a partire dal 2009, perché visto che lei ha fatto una serie giustamente prima di tutta una serie di spese che abbiamo, è quello che risulta a noi che avete come tra stipendio, certo, e soldi a disposizione per gli assistenti, spese di viaggio, l'indennità per la presenza in Parlamento. Per gli assistenti non è come il sistema italiano, questo hanno dei contratti direttamente col Parlamento, quindi il deputato non ha in mano quei soldi, ecco, perché sennò sembra che poi ci guardi, ci sono delle cose strane, perché io capisco benissimo gli 8.000 euro di retribuzione, no, non capisco in perché non sono 8.000, sono 6.000, va bene, capisco meno l'indennità per ogni giorno di presenza in Parlamento, cioè, non sa perché la capisco meno, perché è come il tema dei vitalizi, cioè se sei un euro parlamentare sarebbe come se a me dessero l'indennità per ogni giorno che vado al lavoro, ma ho già uno stipendio per questo. Per cui no, abbia pazienza, sì, ho capito che uno fa anch'io svolgo altre attività, nel senso che non sempre svolgo il lavoro sul luogo di lavoro, però il Sole 24 Ore non si sogna nemmeno di dirmi sì, sei venuto al lavoro oggi, ti do l'indennità, magari. No, attenzione, è diverso, mi scusi se preciso questo aspetto, lei come Sole 24 Ore, se la sua sede di lavoro è ipoteticamente Roma, ma lei è eletto a Milano, per spostarsi a Roma lei deve pagarsi l'aereo e deve pagarsi l'hotel per rimanere. Bene, quella diaria a noi viene data per questo tipo di rimborso. L'aereo viene pagato direttamente dal Parlamento, ma i giorni di hotel e il vitto e alloggio lo paghiamo noi con quella diaria. E a lei Sole 24 Ore glielo rimborsa. Quindi quella non c'entra con i 4.300 euro di spese generali, giusto? Quella è una cosa a parte. No, sono cose assolutamente a parte. 4.200 euro sono quelle delle spese di attività politica e di attività di ufficio. Vabbè. Quindi come lo rimborsano lei, a noi danno la diaria fissa. Perché quando io vado a Strasburgo, lei sa quali sono i prezzi degli hotel a Strasburgo, costano quasi più o meno la diaria e poi c'è il vitto alloggio. Quindi è solo quando siete... avrei preferito una retribuzione diversa. Comunque, va bene, non voglio entrare... Anche a me piacerebbe un'altra, no, per dico, carità, nel però... senso che quando la devi spiegare, che tu hai l'indennità per quando vai in Parlamento, diventa più difficile. Detto ciò, veniamo alle cose più grosse, perché non voglio concentrarmi solo sui 300 euro. Perché non fate, non dico un'interrogazione, ma qualcosa di ancora più forte, per cambiare tutto un insieme di meccanismi, anche il fatto che il Parlamento si sposti a Strasburgo, abbiamo raccontato i costi che ha questa cosa. Allora, lei voleva alzare il velo su quanto facile sia salire la classifica facendo interrogazioni scritte che hanno un costo alto e risultare come molto attivi in Parlamento, e va bene, ma fare un'operazione vera e propria di riforma dei costi dell'Europarlamento, chiaramente non solo italiana. Guardi, a me spiace che questo messaggio non sia passato, ma è da 6 anni che stiamo lottando su questo. Io le parlo da quando sono in Parlamento. Sono stata la prima italiana ad aderire al gruppo intergruppo parlamentare che si chiama Single Seat, ovvero noi chiediamo una sede unica per il Parlamento. Attualmente ce ne sono tre. Quelle che utilizziamo di più sono Bruxelles e Strasburgo. Noi è da 6 anni che continuiamo a lottare affinché si abbia una sede unica ed è un risparmio di 1 miliardo a legislatura. Questo gruppo è formato da inglesi, francesi, tedeschi, italiani. Io sono stata la prima italiana ad aderire. Che cosa abbiamo fatto? A livello di Parlamento europeo, se lei va a vedere, tutte le votazioni che riguardavano la sede unica sono state approvate a grande maggioranza. Qual è il problema? Francia e Germania, che all'interno del Consiglio, però questo noi possiamo fare come parlamentari, è Francia e Germania che non vogliono come diciamo capi di Stato effettuare la modifica di questo trattato, perché il fatto della doppia sede rimane in un trattato. Sì, quindi sì, come parlamentari il nostro compito l'abbiamo fatto e anche bene, perché è passata a stragrande maggioranza. Va bene, grazie Lara Comi, in collegamento con noi, eurodeputata. Era giusto anche capire perché abbia fatto questa iniziativa. Noi restiamo con molte perplessità, come le quali devo dire anche condivise dalla stessa Comi. Grazie Lara Comi, veramente tutto, devo chiudere per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento, come sempre, un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.